Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'adesione dei creditori privati alla ristrutturazione del debito greco, la situazione dei piccoli risparmiatori che hanno investito nei bond ellenici, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea di giovedì 8 marzo con le parole di Mario Draghi, i risultati dell'Ecofin con le decisioni su Grecia, Ungheria e Spagna. Sono questi i principali argomenti al centro della cronaca economico-finanziaria europea e di questa puntata di Economia in Europa. Gli ultimi giorni della scorsa settimana sono stati scanditi da ore decisive per il salvataggio della Grecia nell'attesa delle 21 di giovedì 8 marzo, scadenza fissata per l'adesione dei creditori privati al piano di ristrutturazione del debito. Sentiamo la cronaca di Vittorio Darold del Sole 24 Ore ai nostri microfoni alla vigilia di questa importante scadenza, mercoledì 7 marzo, mentre si cercava di capire quante istituzioni finanziarie avrebbero dato il loro ok accettando il concambio dei loro investimenti in titoli greci con nuove obbligazioni di minor valore e a scadenza prolungata. La nota dell'Institute of International Finance, l'IIF, che è un po' l'associazione delle più grandi banche e assicurazioni del mondo, che sono appunto quelle che hanno deciso e trattato con il governo greco, ha appena rilasciato una nota che dice che sono 32 il numero delle banche che hanno accettato i termini dello swap proposto dal governo greco, per una pari quindi a 84 miliardi di euro, che è circa il 40,8% dei 206 miliardi complessivi che rientrano nel programma di concambio. Quindi siamo ancora ben lontani dalla, intanto, la soglia minima di adesione, che dovrebbe essere il 75%, perché poi tutto quello che succederà in seguito dipenderà dal quorum raggiunto. C'è un'opzione fissata se si raggiunge il quorum del 90%, un'altra opzione fissata se si raggiunge un quorum compreso fra il 75 e il 90, e altre situazioni appunto non prevedibili se invece non si raggiunge neanche il quorum minimo. Vittorio, decideranno tutte domani secondo te, oppure domani sarà una giornata tranquilla così? Ma ti chiedo ovviamente un'opinione nell'ordine delle tue sensazioni, perché siamo in una condizione del tutto imprevedibile, immagino. Assolutamente, ci vorrebbe la sfera di cristallo, però la Bloomberg, che ha fatto dei calcoli utilizzando anche delle fonti appunto riservate, dice che già siamo arrivati al 58%. Cioè hanno calcolato che stiamo avvicinandosi a queste soglie, diciamo, critiche. Dopodiché è evidente che tutto verrà deciso e comunicato appunto all'ultimo, al giovedì poco prima della scadenza, quindi effettivamente sarà una corsa all'ultimo minuto. Sono le ultime ore, poi anche quelle decisive per gli indecisi che ancora non hanno fatto tutti i calcoli, perché la situazione è veramente complessa, ci sono diverse opportunità, diverse cose da tenere in conto. Sono anche due grandi filoni quelli che riguardano, diciamo, i domestici, cioè i titoli detenuti da i greci stessi, da banche, istituzioni o appunto retail greci, che hanno un trattamento diverso, e quelli invece internazionali, che hanno un trattamento un pochino più complesso e più elaborato. Nel pomeriggio di giovedì 8 marzo hanno iniziato a circolare i primi dati ufficiosi che davano per certo il raggiungimento del 75% delle adesioni, già sufficienti per imporre l'adesione forzata di tutti i creditori. Sentiamo sempre Vittorio Darold, intervistato da Sebastiano Barisoni. Si è raggiunto quel 75% che prevedeva un'intesa, in realtà, un accordo della Grecia, non è una vera soglia legislativa. La soglia legislativa per i bond, diciamo, greci, quelli sottoposti a legislazione greca, che sono 177 miliardi sui 206, quindi l'86%, questi prevedevano una quota legale che è molto più bassa, è il 50% degli aventi diritti, e i due terzi devono dire di sì, quindi diciamo il 33% di questa soglia. Era una soglia molto, molto bassa, però Atene aveva detto: se raggiungiamo il 75%, quindi una soglia, diciamo così, volontaria che ha deciso il governo di Atene, a quel punto decideremo insieme alla Troica se far scattare o meno queste clausole collettive di azione, che sono quelle che aprono la strada ai CDS. Sarà l'Unione Europea però che in qualche modo dovrà decidere domani, perché devono decidere i soldi che mancano, perché bisogna arrivare al 95% per arrivare a quell'obiettivo di 120% del PIL.

Mario Draghi ha inoltre sottolineato l'importanza della stabilità della Bundesbank, dopo che il presidente della banca centrale tedesca, Jens Weidmann, aveva reso pubblica la lettera inviata a Draghi in cui si esprimeva preoccupazione per i rischi legati alla politica della BCE di allentamento delle regole sui collaterali per la partecipazione delle banche ai finanziamenti dell'istituto centrale, dichiarando di sentirsi isolato. Sentiamo. We all have to do the right things and we have to do them together. Dobbiamo tutti agire nel modo migliore e dobbiamo agire insieme. Nessuno è isolato all'interno del consiglio direttivo della Banca Centrale. In particolare, non è isolata la Bundesbank, e questo per varie ragioni. Oltre ad essere una banca centrale estremamente importante, ho ribadito più volte che tutti dobbiamo moltissimo alla cultura e alla tradizione della Bundesbank nel mantenimento della stabilità dei prezzi. Dobbiamo tutti molto alla Bundesbank e alla Germania, per ciò che abbiamo imparato riguardo alla cultura della stabilità. Ma ora siamo tutti custodi della stabilità, non c'è un unico custode. Tutti condividiamo lo stesso obiettivo e gli stessi ideali. Siamo tutti sulla stessa barca e penso non ci sia nulla da guadagnare da litigi e dichiarazioni pubbliche esterne al Consiglio direttivo. The Governing Council. E questa è stata anche la settimana delle riunioni di Eurogruppo ed Ecofin, rispettivamente nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 marzo. I ministri delle finanze dell'Unione Europea hanno deciso che la prima tranche di aiuti alla Grecia nell'ambito del secondo programma dovrà essere erogata entro il 20 marzo a causa delle scadenze, obbligazioni per 14 miliardi e mezzo da restituire, che Atene ha in quella data. E quanto si legge in un comunicato che ricorda come il totale degli aiuti arrivi così a 130 miliardi di euro fino al 2014, con lo scopo di riportare il debito al 120,5% del PIL nel 2020. A proposito della Grecia e del via libera al secondo pacchetto di aiuti, sentiamo Olli Rehn, commissario agli affari economici, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. Despite the fact that Europe is going through a mild recession, nonostante il fatto che l'Europa stia attraversando una lieve recessione, nelle ultime settimane abbiamo visto crescenti segnali di stabilizzazione e un ritorno di fiducia sui mercati. In questa fase è essenziale completare la risposta alla crisi e su questo versante una pietra miliare è costituita dalle misure di difesa, i firewall. Le discussioni di ieri mi rendono fiducioso che verrà raggiunto un accordo per fine mese sui sistemi di rafforzamento finanziario. La nostra risposta alla crisi oggi è più forte dopo il successo dell'operazione di swap dei titoli greci, che dovrebbe portare il debito del paese sotto il 120% del PIL entro il 2020. Con il secondo programma di aiuti stiamo aiutando la Grecia a riportare i propri conti pubblici su una direzione sostenibile. Inoltre sottolineiamo l'importanza delle riforme economiche che possono agevolare sia la crescita che l'occupazione in Grecia. That can bring much needed growth and jobs in Greece. All'Ecofin però non si è parlato solo di Atene. I ministri delle finanze dell'Unione Europea hanno anche approvato il blocco di 495 milioni di euro di fondi europei previsti per l'Ungheria, a meno che il paese non prenda misure per correggere il suo deficit eccessivo entro giugno. E si è parlato anche degli obiettivi di riduzione del deficit spagnolo. Su Ungheria e Spagna sentiamo il resoconto di Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, proprio nella giornata di martedì 13 marzo. Sono due paesi in situazione completamente diversa, paradossalmente. L'Ungheria non ha risanato i conti pubblici negli ultimi anni ed ha un deficit superiore al 3%, nonostante avesse preso l'impegno di ridurre il deficit sotto a questo livello nel 2011. E quindi un mese fa la Commissione ha deciso di applicare una nuova norma del patto di stabilità e di chiedere al Consiglio di congelare 495 milioni di euro di fondi strutturali che dovrebbero essere versati al paese dell'Europa centro-orientale a gennaio dell'anno prossimo. La Spagna in realtà si trova in una situazione diversa. La Spagna deve ridurre il proprio deficit sotto il 3% nel 2013. Non ha mai mancato a questa promessa, l'ha ribadita anche recentemente. La Spagna però ha chiesto maggiori margini di manovra per quanto riguarda il 2012. L'obiettivo preso con la Commissione era di ridurre il deficit al 4,4% nel 2012, aveva rivisto la stima al 5,8, ieri sera ha trovato un compromesso con i ministri finanziari dell'Eurogruppo per portare il deficit quest'anno al 5,3%, mantenendo l'obiettivo del 3% nel 2013. Quindi i due paesi sono in una situazione leggermente diversa ed ecco perché oggi l'Ungheria è stata oggetto di un voto nel Consiglio che porterà da qui alla fine dell'anno al congelamento dei fondi strutturali se il paese non introduce quelle misure necessarie per risanare i conti pubblici. E anche per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.